intanto scoccano le due, non so se mi rendo conto, in questa maratona che non avrà veramente sosta. E piano piano come continua la traghettata. No, perché ci ha messo il traghetto in testa questa qua, non e riesco niente. Più a coniugarlo in altro modo. Sono aperta? Sì, sei aperta, ciccia, se si sente. Scusa, le so, sbagliato. No. Che? Il traghetto. Ah, si parlava di quello. Sei stata tu, è colpa tua che ci hai messo un traghetto, la traghettata, ci impicciamo. E visto questa incursione ci leggi un altro segno dell'ora. No, ora non posso perché stanno utilizzando il computer, non so se vedi. L'altro? Su quello? L'altro. Hai presente quell'altro computer? Ah, diciamo c'ha un collo solo. Ah, ok, allora tra un po'. Allora noi intanto invece continuiamo con la musica. Ho fatto una cosa incredibile. Anzi, col il jingle. Non l'otto, solo l'otto. Martedì autogestito da femministe e lesbiche. Dicevamo, continuiamo con la musica. Da Cuba andiamo tra Messico e la Colombia. Intanto preparatevi questo segno. È difficile, diventa complicato. Ma ora che facciamo? Usate quel computer là. Cioè, raga, scusate, domanda con pesci che c'è. Niente. Acquario, vi prego. Se no devo aspettare tutto il giro. Sì, no, infatti abbiamo deciso questa cosa che ci diamo più priorità. Intanto quelle che siamo qua, i segni di quelle che siamo qua. Voi state nel lettuccio caldo. Ci diamo scusa, priorità. Manco ci avete portato il caffè. No, dico. A proposito. Va a prendere il caffè, lo so. Vai. Sono scattate le due, vai. Empacho di chita, cuglia silvestre, proibida, corrida, atrevida, extraterrestre, cuglia villera, profunda, cerretera, del día, de la noche, de la tarde entera, si no te enteras, bailarás hasta que muera, no te preocupes cuando mueva la cadera, si eres muy fino y muy gringo y te desespera, y nadie se ha dado cuenta, estás bailando, no se entera, power, power, recontra power, México, Colombo, argentino, anda, enchúfame los cables, no me hables que yo no te estoy oyendo, sube el volumen que no te estoy entendiendo, niendo, quiero que tú bailes y sientas mi movimiento, lento, lento, lento, lento, dame aquí lento, lento, lento, y vamos niña, ay Dios, yo estoy aquí representando la calle, soy de Monterrey y me gusta el desmadre, vivo de noche, ya te la sabes, no hay quien me escuche y no se raye, no hay quien me escuche y no se pare, bailar en la pista y la camisa va. Quitan las ideas, ya que le importa que no te crean, si hiciste lo que quisiste, sea lo que sea, para, detente, respira, no pienses tanto que estás una sola vida, si no te importa, si se te olvida, párate y baila la cumbia prohibida, power, power, recontra power, de mi Colombo argentino, anda enchúfame los cables, power, power, recontra power, de mi Colombo argentino, anda enchúfame los cables, power, power, recontra power. Colombo argentino, anda, enchúfame los cables. Power, power, power, power, power, power, power. Me ha prohibido esta power de vida. La power de vida. E allora avete cominciato ad assaggiare un po' di entusiasmo in questo studio. Io passo subito i microfoni a Bia perché abbiamo il primo collegamento di questa sera, quando sono le 2:05 della maratona femminista. Sì, siamo continuiamo dai microfoni della Donna Rossa. E sì, si sente un po' di ritorno, però va bene in cuffia. E diciamo che Io non so se mi sento ora però, eh? No, infatti, neanche io, questo è un problema. Allora, aspettiamo un attimo. Stevan a pisar. Allora, intanto gli 87.9 di Onda Rossa, come avete sentito, siamo in collegamento finalmente, il primo collegamento di questa maratona femminista notturna dell'inizio della notte. Io passo il microfono a Bia, vai. Sì, allora abbiamo pensato di proprio di fare questa incursione da lontano, e è un momento abbastanza importante per noi, e siamo un po' in studio. Io passo la parola a Bea, che è qua, che ci presenterà appunto questa persona che sta un po' lontano e che ci dirà qualcosa su qualcosa. E allora cosa succede? Succede che dall'altra parte del cavo e del mare ci sta Diana, la pornoterrorista, che sta per tornare in Italia. E Diana ha scritto un libro un po' di tempo fa che raccoglie in realtà quelle che sono le sue esperienze. E questo libro, dopo ben 4 anni, dopo essere stato tradotto in inglese, in francese, aver fatto il giro, finalmente si trova la forza di tradurlo anche in italiano. E soprattutto è quello che racconta, si chiama Pornoterrorismo. Che bello, cioè abbiamo un po' più di gente tutti assieme. C'è Diana che ci sente, e quindi ciao Diana. Come si sente Diana finalmente a tornare in Italia con... Allora, facciamo una prova intanto, no? Diana, ciao, ci sei? Intanto? Sì, abbraccia un poco. Risponde, non si sente. Cioè, calcolate che c'è un po' di ritardo quando arriva la sua voce. Però? Ok. Sì? Non ti sentiamo? Aspetta, te Marta la senti? Diana. Questo ha un delay. Esattamente. 7 secondi. Sì. Ok, ci abbiamo 7 secondi almeno di ritardo. 7 secondi. Mentre nei 7 secondi noi possiamo fare tante altre cose. Ok, e allora però noi l'avevamo un po' pensata così, questa cosa qua della tua intervista. Ti chiediamo di in 5 minuti di spiegare qual è la relazione tra l'8 marzo e il pornoterrorismo. Allora, diciamo che 5 minuti per spiegare questa cosa, e poi noi ti faremo anche altre domande, chiaramente sul libro, che è quello che hai scritto. Che cos'è il pornoterrorismo? No, ho chiesto un'altra cosa. Spera, eh. Qual è la relazione entre l'8 de marzo? No, spera. Penso che sia staccato qualcosa lì. Ok. La pregunta que te hacemos, y que era para preguntar después de 7 segundos, es la relación entre el 8 de marzo y pornoterrorismo para ti. No. Sí, estoy aquí. Okay. Vai, dici que son cuffia. Lei pensa a cosa ci risponde mentre passano questi 7 secondi. Que no se llega a la mala acción entre... Allora, direi che c'è un problema, cioè che arriva proprio male, che si sente a scatti, quindi io continuo a sentire, a tenere aperto il tuo segnale, ma corta il... Va bene, allora riproviamo dopo a richiamare per me un attimino, magari mettiamo intanto un po' di musica e poi adesso riproviamo, facciamo un'altra prova tecnica. Yeah.

allora, come abbiamo provato a fare prima, invece io riapro i microfoni e vediamo questa volta che succede, e li passo come sempre a Bia e Bea. E dall'altra parte speriamo che ci sia Diana. C'è Diana? Ciao. Ok, ti sentiamo, sei registrata. E tutto quello che dirai verrà usato contro di te durante il tuo tour in Italia, perché Diana sta per arrivare in Italia, sta per farsi un bel giro d'Italia. E perché ti fai questo giro d'Italia, Diana? Come, come? Che viene stasera in Italia? Pornoterrorismo, basicamente. A presentare il libro, fare performance, laboratorio. Parli molto bene comunque l'italiano, per questo ti poniamo subito una domanda difficile, sappiamo? No, per favore. Sì, per questo, perché sappiamo che... Comunque... Perché abbiamo molto rispetto per te, Diana, ti rispettiamo tantissimo. E sei qui durante questa fantastica maratona femminista alla Radio Onda Rossa, che si tiene ormai da chissà quanti anni, ed da è bello averti anni. Qua. E quindi... Da tre anni. Tra pieno di donne qua, poi c'è un sacco di donne che ti stanno ascoltando mentre si stanno addormentando a letto o stanno fumando. Vabbè, andiamo al dunque. La domanda è questa... La relazione tra l'8 di marzo, che è un giorno di lotta, sappiamo, un giorno di lotta internazionale, questo, sì. E il porno terrorismo. Per questo noi. Questo che è un giorno di lotta, se pensa che è un giorno di festa. Di esatto, festa, no? E noi siccome invece lo sappiamo. Quindi la domanda è questa: 8 di marzo e porno terrorismo. Che ci vuoi dire? La relazione di queste due cose. Claro. Perché no capisco la domanda. Mi pregunta hai una relazione tra terrorismo e femminismo. E qual è la relazione? È una cosa che sta totalmente attaccata all'altra, no? Sì, assolutamente. Sì, però sai che qui in Italia, allora, la prima cosa è che dovresti parlare un po' più forte, perché sennò non ti sentono. E la seconda cosa è che qua in Italia non si conosce molto il porno terrorismo, oppure si conosce poco o lo conoscono in poche, no? Non posso parlare più forte perché sono una casa dove ha gente che sta dormita. Okay, non posso parlare più forte. Allora avvicina un po' di più la bocca al microfono, tesoro. Così? Sì, già, così va meglio. Poi già sono più le 2 di notte, facciamo più una cosa un po' così, Così perfettamente noi proveremo ad ascoltarti, però sai, come ti dicevo prima, insomma, ci piacerebbe che ci spiegassi nel miglior modo questa storia qua, se ti va. Se invece vuoi parlare di altro, noi siamo parla di altro, come vuoi, insomma. Ma voi volete spiegare la storia che racconto il mio libro sopra questo giorno del 8 di marzo? No, diciamo che mi stanno mandando? No, quella potrebbe essere un'altra domanda, però se tu invece vuoi parlare di altro puoi farlo. Noi avevamo pensato di farti questa domanda anche per metterti un po' così in difficoltà, però No, sta bene, posso parlare un po' di questo. Vale. Per me Vai. È una cosa troppo istituzionalizzata, mm-hmm. che si è preso come ok, ogni giorno se parla della violenza contro le donne e il resto dell'anno non parla niente. È come una cosa tutte le giorni, avete di essere, penso, ma non so qual è la relazione con il porno terrorismo, suppongo perché sono porno terrorista ogni giorno. Anche non so che dire. Sì, mi sembra un'ottima risposta. Però allora, invece l'altra domanda. Bia ti vuole fare un sacco di domande. Sì, sono ispirata qua. Sono piena di domande. Si farà un sacco di ore qui davanti alla radio, quindi c'ha voglia di fare domande. Ecco. E quindi spiegaci un po' invece questo libro, se ti va di dirci due parole, quali sono, cioè, un po' Bea l'ha spiegato, che insomma parla un po' di te, no? Di quello che fai, eccetera. Però se tu vuoi aggiungere altro, noi saremo molto contenti, perché insomma ci teniamo che questo 8 di marzo si parli anche di parlo terrorismo, ecco. E perché no? il libro per me è come una herramienta, si dice? Come uno strumento. Un strumento per aprire menti e anni, basicamente. È come una forma di di dire alla gente che puoi leggere che è possibile fare una rivoluzione personale sul corpo e sulla sessualità, che non è una cosa come lontana, è una cosa facilissima, solo di vincere l'nemico che sta dentro di te. Come si dice dentro? Dentro di te, no, preciso. Sta dentro di te. E che è un'erramienta, è stata un'erramienta abbastanza pratica. Le ultime, fine 2011, che è stato pubblicato a castellano, è fatto come per me, a me la vita mi ha cambiato molto con esso. Ma credo che a molta gente anche le ha cambiato la vita. Un po'. Ma quindi, immensa per no, me. La domanda che ti faccio io, no? È che non sai che domanda mi fai, ma falla breve, corta. Sì, sì, scusa. Fai scusa. Una super frase enorme, non entiendo, no. Sì, chiaro. No, dico che dal 2011, ad esempio, no? Te dal 2011 hai pubblicato questo libro. Tipo, ma all'oggi tu avresti aggiunto, hai aggiunto altre parti oppure è rimasto basicamente lo stesso? Come non no, aspetta che mi inserisco. No, te preguntaba si el libro desde que salió a lo que se ha traducido ahora es lo mismo que salió en el 2011. Pero sí, yo creo que la pregunta que te quería hacer era si más bien, aparte de pornoterrorismo, estás trabajando en otra cosa y tienes como proyectos, otros libros y... Sí. Sono, adesso sto un manuale di eyaculazione. Un lavoro più grosso in comparazione con pornoterrorismo, perché in pornoterrorismo finalmente solo parlo della mia esperienza, non di fare una ricerca per parlare della mia esperienza, ma con eyaculazione sì, e sono facendo una ricerca sulla eyaculazione femminile, entre commiglias, perché bueno, già sappiamo che ha molte ragazzi anche con figa, femminile non sta bene, per questo sto facendo una ricerca e aspetto di pubblicarlo quest'anno. E anche ho un altro libro, La etica degenerata, che sta di là nel the back door of the my hard drive. Già non so in che idioma parlo. Infatti io questo non lo sai traducir, querido. Sì, non mi avete intendito? Che tengo también otro libro che sta a medias e che spero también pubblicar este año, anche la degenerada, che sería come una ética para monstruos basada un poco en la ética marica de Paco Vidal. Anda, qué interesante. Muy interesante. Que hay que actualizar las ideas un poco. Sí, sí. Y hace falta mucha ética. Assolutamente. Quindi sopra la ética frocia, perché la ética rosa. L'etica rosa, sì, ma abbiamo presente. E quindi proprio anche sull'eiaculazione, sulla riappropriazione del piacere che stai facendo questo lavoro, ed è anche quello che fondamentalmente succederà quando vieni giù in Italia ad aprile. Nel tuo tour, tra le varie tappe, ci sono un po' di laboratori sull'eiaculazione femminile. Noi speriamo di averne anche uno qui a Roma. Sì. Dove era? Quindi, per chiudere, no? Qual è il messaggio che tu, cioè un messaggio del porno terrorismo, cosa vorresti lanciare in tre parole, cosa potresti dire? Basicamente il corpo e la sessualità è un'arma per fare la rivoluzione, è un'arma che non è stato niente presa in conto per fare la rivoluzione, e questo ha di cambiare si volevano cambiare il mondo o cambiare la situazione personale. Corpo e sessualità, e quindi il corpo come arma rivoluzionaria. Esatto, bellissimo questo. E su questa chiudiamo e ricordiamo a chi ci sta ascoltando che per sostenere la presentazione e il viaggio di Diana c'è un crowdfunding, per ora si sta facendo online su Verkami. Speriamo di fare anche qualche altra cena, sicuramente anche al Forte Prestino, probabilmente in questo mese, per fare anche un crowdfunding più dal diretto e dal vivo. Perfetto. E questo, e quindi noi continuiamo a parlare e ad aggiornarci. E ci salutiamo qua, Diana. Va bene? Vuoi dirci qualcos'altro? Sì, ti ringraziamo per questa incursione e siamo molto contente. Ora rifletteremo molto sui nostri corpi tutta la notte, staremo qua a riflettere, a fare cose, cioè, certo. Ormai ci ha detto io questo noi. Essere di là. Ma noi, noi pratichiamo quello che ci dici, chiaramente. Assolutamente, pratichiamo tantissimo ed è un ottimo. Siamo tutte armi che sono nello spazio. Grazie. Ora. Vero, grazie, vero, si parte dalle pratiche più che dalle teorie, però grazie Diana, alla prossima. Buonanotte. Buonanotte. Ciao Elle. Lotto, lotta. Lotto, lotta. 24 ore di diretta radiofonica femminista e lesbica, non stop. Non lotto, solo lotto. Martedì autogestito da femministe e lesbiche. Ce ne te cutipa. Esta canción que canto, amigas, no es una más de dolor. Si es que me ves llorando, amiga, discúlpame por favor. Otra vez. They can't stop stopping us. They can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego. Vamos, slow freedom, que cuando llega. Que miras a tantos ojos, me como los tuyos día a día. Tengo en ti mi amanecer, mi mejor día. Quando tu sogo, mi sogo, ecstasy, clima. Le 2:29 minuti continuo questa maratona, è solo l'inizio. La fría mañana sana de mis frutas trae la brisa, la lisa libertad de tu sonrisa. Navigheremo, ci traghetteremo fino alle 6. Viva es la vida, tus ojos, mis ojos, la paz. Quando arriverà il breakfast? Eh? Lo aspettiamo. Speriamo un ricco breakfast. Sì, anche perché l'anno scorso io ho questo ricordo nei fumi che tipo abbiamo. Cioè ci sono arrivati i cornetti che noi stavamo ancora a brindare col vino rosso dall'una ed erano appunto le 6:10. Ebbene sì, alle 6:15 c'erano arachidi e cornetti sullo stesso tavolino. Esatto, con le olive del Martini delle 8 che poi era già diventato l'ottava bottiglia di vino. Va bene. Però intanto già mi sembra che di chiacchiere ne abbiamo fatte, no? Abbiamo. Stiamo sempre a chiacchierare comunque. La cifra, a me la cifra. Qualcuna? Io invece vi posso dare la buona notte. Infatti. Vabbè, è giusto perché c'è chi si deve alzare per andare a lavorare. E quindi. Quindi buonanotte. Buona però è una buonanotte che tu sai che domani ti svegli e tanti. Siamo noi! Ma casomai noi no, ma insomma che c'è ancora ore e ore di maratona. Un prosecco. Prosecco. Buona maratona. Dai. Grazie, ciao bella. Buonanotte. Tra l'altro il computer è fondamentale per questo collegamento, insomma, quindi notevole. Scusa, ma l'acquario l'abbiamo letto o no? Eh no, e sarebbe anche ora. Aspettiamo solo te. Allora, torniamo col nostro oroscopo di Astronza. Continuiamo con la segna dell'acquario, solo perché appunto partiamo sempre da noi e Marta è acquario. E inizia così. Ti dico solo questo. Ecco, mi reggo forte. Mi reggo al tavolo, aspetta. Ti dico solo. Bomba. Trema. Bomba. Trema di voi, a belle. So io, bomba. Quasi sta a parlare di me. Scusa, scusa. Bomba. Bomba. Venere dal 5. Quindi già fatto. Quindi già esplosa. Esplosa. Venere dal 5 entra nel segno dove già si trova Mercurio. Marte è splendido, è splendido dalla bilancia. È una decade d'oro questa e voi brilluccicate come pagliacci. Tiè, vedi, t'ho detto. Anche l'oroscopo TB arriva 7 secondi di ritardo. Favoriti gli incontri e i nuovi progetti. Eccomi, che ci mettiamo stasera, anche ragazzi. Tutto ciò che è già avviato. Dove conferme, riconoscimenti. Va bene. Allora, in amore si arriva. Scusate, esatto, voglio dire una cosa importante. Sei preparata bene. Che in amore si arriva al nocciolo della questione, delle questioni. Fascinamento, incontri fortunati in vista. Da e sabato qui prima. Torna il controllo di ciò che è accaduto. Esatto. Vediamo se sei pronta. Scusa, guarda se te corrisponde. Mi sa che vado a dormire. Aspetta, te corrisponde. Da sabato 1 al pomeriggio di domenica 2, pacifici e gentili. Ma no, abbiamo i nostri dubbi. E là c'è il dubbio. No, per carità, non ti abbiamo incontrata. Quando mi capita riesco a essere gentile. Pacifici e gentili. Insieme. Dal tardo pomeriggio di domenica 2 alla sera del martedì 4, giornate propositive e attive. Ti risulta? Ci sta. Dalla cena di martedì 4, tutti i calcoli bisogna fare. Dalla cena di martedì 4 alla notte di giovedì 6, contrattempi e testardaggine. Già qua ci sta. Vabbè, dopo tutte queste cose belle, un po' te devi rosicare. Almeno una volta alla settimana l'acquario rosica. Senti quanto è vero questo? Vai. Dall'alba di venerdì 7 alla mattina di domenica 9, quindi oggi. Eccoci. Allegri e pimpanti. Dai, Elia. Levatevi il pigiama e mettetevi le paillette, come diceva poc'anzi, che è solo l'inizio. Quindi finisce così. Scusate, dobbiamo finire. Dai. Dal pranzo di domenica 9 a lunedì 10, giornate da coccola. Sì, perché mo stasera faccio tardi, non si riposa. Ti è andata bene, tesoro. Mi sa che lunedì a riunione qua ci vengo. Va bene. E questo era l'acquario. Ok, questo era l'acquario. Prossimo segno ai voti. Quale? Ma annunciamolo e poi metto la musica. Annunciamolo. Vabbè, mo vediamo. Intanto metto la musica. Valeria, te che segno sei? No, vuoi dire? No, non sei segno. Che ne è, cosa so. Tu ce penso. Sei forte per necessità. Fui l'ombra della casa. No, non te. Conocí la necesidad, mi corazón descalzo se perdió en la ciudad, de mis suelas gastadas, de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad, de que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad, y que solo me acompaña, paña, paña a mí, verdad, verdad, mi verdad, no quiero solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Tu actor es secundario, violenta su salud y educación es secundario. Dime la puerta más se ha acordado. Tu actor es secundario, menos filme, mi gente de bien se queda y tempestad, los ojos de mi barrio se llueven en humedad, contra viento y marea creamos humanidad, en contra del silencio rompiendo la frialdad, y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad, y que solo me acompaña, paña, paña a mí, verdad, verdad, mi verdad, no quiero solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Tu actor es secundario, violenta su salud y educación secundario. La puerta más se ha cortado. Tu actor es secundario, menos filme, antagónico. Donde ustedes ven el miedo, nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad, pero jamás conocerás la solidaridad. Se rima, se Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad. Otra vez. They can't stop stopping us. They can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego. Vamos, slow freedom, que cuando llega, que miras a tantos ojos me como los... Allora, gli diamo di Sagittario. Sì, sì, sì. Sagittario. Te guardo mentre te leggo. Marzo si apre con la luna nuova di traverso, che qualche noia ve la porta. No. Ma questa prima parte del mese è generosa. Nella professione ci sono tanti nuovi sbocchi e possibilità. Siete originali e intraprendenti e questo alla gente piace. Ottimi rapporti con l'esterno. In amore non avete ostacoli. Da sabato 1 al pomeriggio di domenica 2, giornate storte. No, passate ormai. Ti risulta? Ti risulta, vale? Faccia interrogativa? No, non lo so. Non è convinto. I calcoli sono difficili, lo so. Invece, guarda se ti risulta questo. Dal tardo pomeriggio di domenica 2 alla sera di martedì 4, gran giornate. Ti risulta? Sì, sì, sì, questo ti risulta. La faccia è soddisfatta. Soddisfatta. Dalla cena di martedì, ti ricordi che hai fatto a cena? Sì. C'è sta, dice sì. Che sì, dice che sì. Alla cena di martedì 4, la notte del giovedì 6, precisi. Ci sta. Dai, precisa. Dall'alba di venerdì 7 alla mattina di domenica 9 deve ancora avvenire, non lo puoi sapere. Di domenica 9 nervosi e dispersivi, capì? Cioè questo è una cosa che deve ancora avvenire. Dal pranzo di domenica 9 a lunedì 10 in vena di dolcezze, cioè ritorni, capito? Dolce. Ti aiuti col dolce. Devi incontrare un acquario che è in vena di coccole. Ciao. Alla... Che fai domenica? Allora, l'acquario in vena di coccole, quella delle dolcezze, che è pagliette, sì. Andata a cena. È fatta. Chi c'è? Oddio, che figo così. Allora, qua ci sono degli incontri. È scattata la cosa dei segni. Il gioco. La complicità dei segni. Dai. Ecco, facciamo anche per questo, però. Che potete... Vogliamo fare? Dimmi. Che ci possono richiedere? Il telefono. Al telefono? Mi leggi il segno. Sì. Dai. Ci volete chiamare per dire quali segno volete dopo? Allora. Concludiamo Sagittario. No, questo è concluso. Cioè, con la dolcezza. Noi concludiamo con dolcezza. Quale conclusione migliore? Vabbè. Però io direi che domenica. Chi vuole il segno ci può chiamare. Però non esageriamo. Non chiamate troppo, raga. Ecco. Perché noi qua in realtà ci abbiamo pure da fare delle cose un po' serie. Un po' serie. Ecco. Mica che siamo solo. Quindi quando vogliamo fare queste cose serie? Va bene, tra un pochino, dai. Tra un segno e un altro ci possiamo incursionare con qualcosa. Vale. Dai, vale. Intanto. C'è aspettativa. Musica. Una sonrisita y de tu fuga ya voy que es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces ormai sono le 2:43, torniamo sugli 87.9, ricordiamo che siamo alla maratona dell'8 di marzo, il martedì femminista e lesbico, e ora siamo arrivati a un momento un po' importante perché vogliamo parlare di sentimento, d'amore e sentimento, e insomma volevamo leggervi qualcosa che insomma abbiamo voglia di dirvi, di comunicare in questa festa che si dice appunto essere la festa della donna, ma spesso poi purtroppo è anche la festa del genere violento, no? Cioè anche delle relazioni, della rigidità del genere, quindi del maschio e della femmina, inteso no in senso commerciale, quando invece dovrebbe essere, cioè, in realtà è una giornata di lotta. E crediamo ci sta proprio bene quella che è una poesia sull'amore e contro l'amore, una poesia che già sta girando da parecchie parti, più volte è stata, anzi forse una volta, forse solo una volta. Sì, mi sa. Questa ragazza è emozionata, scusate, sta introducendo. E è stata già letta al Transvalentino, e è stata scritta da una donna che si chiama Santa Dubito. Santa Dubito, quindi già il nome, insomma. Sì, poi se l'è andata a cercare si capisce che l'ha scritto lei, fondamentalmente. Basta un po' guardare. Quindi queste sono le indicazioni, e quindi Santa Dubito. Caro Wilde, magari fosse vero che i poeti hanno ucciso l'amore. A me sembra che la carneficina sia ancora in atto e che sia morto solo tu. Io vi vedo, vi sento, vi leggo e mi sembra chiaro che la storia della metà della mela v'abbia fatto proprio male. Ma non scherziamo su, via. Io, se trovo l'anima gemella, mi sparo in bocca. Ma gemella cosa? Mi volete uccidere forse? Il simposio l'ha scritto Platone, che guarda caso della sua anima gemella che gli completava la vita non ci ha mai parlato, perché non ce l'aveva, facile, ma continuate a pensare pure che fosse l'uomo discreto e amante della privacy. Continuate pure a cercare sto pezzo di mela e continuate a pensarvi incompleti senza una persona accanto che magari vi fa sentire costantemente inadeguati e mai abbastanza. Però voi lo chiamate amore con la A maiuscola, che subito diventa una poesia da cioccolatino. A me la vostra idea di amore mi fa schifo. Mi sembrate tutti rincoglioniti, perdete la razionalità e iniziate a diventare ossessionate. Ora ti rubo la password di Facebook per vedere a chi scrivi e perché hai effettuato l'ultimo accesso su WhatsApp alle 4 del mattino, se mi hai dato la buonanotte alle 2:37. E non guardare il culo delle altre, non filtrare con gli altri uomini. Il vostro amore lo immagino come una prigione piena di gattini e peluche a forma di cuore con su scritto I love you. Così, questo amore così violento, così fragile, così tenero, così disperato, così rompicoglioni. Questo amore che finché ci siamo utili a vicenda va tutto bene, ancora non l'ha scritto nessuno. E i cantanti, anche i cantanti, credono in forme fantascientifiche dell'amore. Non abbiamo scampo. Per me certi amori che non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano, si dovrebbero prendere anche un calcio in culo in modo da fare un altro giro immenso e perdersi nelle correnti gravitazionali, lo spazio, la luce, invecchiare e morire, finalmente. Siete riusciti anche a farci sentire in colpa perché facciamo sesso senza amore, che se non sei perdutamente innamorato di qualcuno non ci scoppi bene. Ma cosa siete, Biancaneve e il Principe Azzurro? Tutta la vostra vita è incentrata sull'amore che viene prima di ogni cosa, e poi tutti disperati perché non potete esibire il vostro, la vostra partner come trofeo nelle uscite di coppia di San Valentino. Ma è forse colpa mia che non sono adatta per l'amore. L'ho scoperto quel giorno in cui il mio amico metallaro accompagnò la sua ragazza al concerto di Gigi D'Alessio. Lì ho avuto un'illuminazione. Non potrei amare fino a tanto. Sarà colpa mia. Colpa mia che non voglio accanto uno che mi completi, ma uno che aggiunga qualcosa alla mia completezza. Colpa mia che non ho paura di restare da sola e accettare di passare la vita con qualcuno che mi chiama Troia, e non perché stiamo giocando. Colpa mia che faccio sesso con grandi soddisfazioni senza metterci cuori in mezzo. Colpa mia che vorrei che iniziasse tutte a scrivere cazzo e figa in maiuscolo, non solo amore. Deciso di restar con te, oh yeah. Ma ecco che tu, ecco che mi hai preso tutta per te. E fra un po' io non respirerò più, oh no. Ancora la maratona femminista dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Allora, abbiamo fatto un po' di letture serie. Torniamo a un po' di musica alle 2.51 minuti, eh? Corre il tempo, poi non sembra, ma siamo quasi alle 3, sorelle. Ce l'abbiamo quasi fatto. Dai. È un attimo. Sì. E non che? Siamo a metà del cammino. A metà, dai. Ci siamo arrivati a una favola comunque, dai. Sì, stiamo in forma. Formissima. Il traghetto, tranquille. Il traghetto continua la sua strada. Ma siamo arrivati al toro? Qualcuno vociferava un toro, Bea, no? Bea, toro, Bea. E allora sì, eccola, eccola. Vai col toro. I primi giorni del mese sono i più validi. Poi dal 5 Venere si mette ostile insieme a Mercurio. E per farvi capire non basta un traduttore. Nel lavoro c'è più fatica che altro. La pazienza e comprensione difettano. I soldi sono più quelli che escono che quelli che entrano. In amore il vostro stato d'animo pesa. Siete siate meno critici sia con gli altri che con voi stessi. Da sabato primo al pomeriggio di domenica 2, giornate piacevoli. Dal tardo pomeriggio di domenica 2 alla sera di martedì 4, giornate dinamiche. Ragazzi, sono quasi sempre le stesse date poi, eh? Domenica coccoli. Ma almeno 3-5. Si spostano. Giustamente mi danno delle spiegazioni tecniche. Ci dicono che è il momento in cui ci si spostano i pianeti, okay, e ci si sposta l'umore, quindi le giornate sono quelle, non c'è niente da fare. Bea, anche per te dal primo dal tardo pomeriggio di domenica 2 alla sera di martedì 4 giornate dinamiche. Dalla cena di martedì 4 alla notte di giovedì 6 luna nel segno emotività. Dall'alba di venerdì 7 alla mattina di domenica 9 pettegolezzi. Dal pranzo di domenica 9 a lunedì 10 vogliosi d'affetto, ma occhio alla malinconia. Cioè, sempre lo stesso gruppo che si riunisce, capito? Quelle che è paglietta, quelle che ha malinconia e quelle che è dorcezze. Lo so, però non dipende. Veramente scontenta. Però giustamente non è nulla contro i pianeti, cioè, che come ruotano. Diceva sta quasi a rosicare, sta un pochetto, cioè, un attimo, guarda come si è ripresa, sono sempre i pianeti, però che quelli, cioè, te seguono, capito? Ecco, anche i pianeti sono a collo, cioè, sono a collo, regà. Vabbè, loro se poi fanno tutto da soli, si inventano, cioè, non si sa che è successo, certo. Se gente entra se ne hanno va da, ci stanno andando a prendere da mangiare. No, scherzo, dai, erano scherzi. No, diteci se stanno andando a qualche serata a Via Libetta. A Via Libetta. Forse abbiamo capito qualche spoglia. No, ragazzi, però vabbè, ognuno una cosa è lotta, però vabbè, ognuno sceglie pure quello che lotta. Lotta come vuole. Vabbè. Lotta. Diciamo così. Metta musica. Sì, dai. Un cieco? Sì, tanto per dare un attimo, capito? L'ho messi, un po' un ritmo. Cioè, non è che non l'ho messi, Vabbè, mettiamo un po' di musica, allora. Provate, fa un po' come ti pare. Altrimenti fra un po' cantiamo noi. Autodeterminazione. Lotto. Lotto, lotta. 24 ore di diretta radiofonica femminista e lesbica, non stop. Partial to the night sky. fuss and relax. Pretty little things stop me in my tracks. But now she sleeps with one eye open. And that's the price she'll pay. I took a knife and cut out her arm. I took it home and washed it with and I well, she's lucky that I didn't slip a smile. That's why she sleeps with one eye open. Oh, but that's the price she'll pay. Fingers out of my pie. I said, hey, go with one eye. I'll cut your little heart out, 'cause you made me cry. I slipped my hand under her skirt. I said, don't worry, oh, it's not gonna hurt. My reputation's kinda close. Why you sleep with one eye open? Oh, but that's the price you pay. You made me cry.